Destino FM. Adesso? Adesso va bene. Ciao Odi. Ciao già. E te se fa attende? Te se fa attende, fusata va. Sto facendo anche a camminare. Perché? Sempre a dolori? Sì, a dolori, anzi, adesso sto bene. La settimana scorsa non riuscivo neanche a camminare. Sì, già adesso qualcosa io. Prima di fare l'operazione a femore, le maggio passato, ho consumato 3 scatole di occhi dai dolori e la notte non riuscivo mai a dormire in nessuna posizione. Infatti stavo parlando con Claudio che lui prendeva queste pastiglie qua, infatti glielo ho detto di farmi vedere che pastiglia era, sono andato dal dottore se le potevo prendere anche io. Mi ha detto di sì, me l'ha prescritta, tutto quanto, sono andato a prenderle, in giro di un paio di giorni che le sto prendendo, vedo il risultato perché riesco già a stare un po' in piedi. Prima, appena stavo in piedi, mi dovevo subito sedere perché mi tiravano i nervi dei muscoli, senza dubbio. Perché l'agopuntura non è più efficace, non l'hai mai fatto? Ma se siamo andati, cazzo, una mezzo cagata. Abbiamo buttato soldi per niente, non serve a niente, tutto cazzato sì. Davvero? Ma eppure mia sorella aveva avuto un incidente e non poteva girare il collo, ha fatto l'agopuntura e gli ha fatto bene. Lei mi dice sempre che grazie all'agopuntura che riesco a muoverlo, perché non riuscivamo anche a girarci se venivano macchine. Fatto un casino qua, quando ci sono questi dolori così faremo fatti di vero, dopo ti faremo al buco. Sì, io te lo ripeto, 2 settimane fa non riuscivo neanche a camminare, piegato dal dolore, proprio male, male, male, e dovevo stare seduto o sdraiato, così mi passavo, come mi alzavo in piedi, ciao, mi facevano venire le stelle, mi facevano venire. Che cosa si può fare per tagliare il disco? Sono operato. L'operazione. Per forza l'operazione devi fare. Dice che ci sono a Cagliari, che sono bravi, che te lo fanno all'ASE. E perché non ti informi allora? Magari ti fa una visita ortopedica, ti fanno fare l'ecografia. Con la risonanza magnetica direttamente e poi magari vai con la risonanza a Cagliari e vedono la situazione. Sì, adesso la risonanza l'ho fatta l'anno scorso, mi sa che vogliono la risonanza proprio fatta da pochi giorni, perché non ne vogliono quelle fatte dall'anno scorso, vogliono proprio quelle fatte da poco, perché se no non va bene. Sì, vogliono la situazione attuale, perché la situazione si può essere anche peggiorata, Dio non voglia, ma si può essere anche peggiorata, quindi loro devono vedere com'è. Loro vogliono vederla subito. Poi magari te la farò fare anche all'ospedale. Voglia. Cazzo, qua stamattina alle 7 di mattina la gente si mi azzocco, cazzo, dove è successo? Ambulanze, polizia, carabinieri, un casino. Esploso la cucina, viata. Cazzo, ma per caricarsi. Chi lo sa, secondo me sì, magari hanno lasciato il gas aperto, stamattina sono andati a fare colazione alle 7. Come ti hanno atteso la luce, il gas già lo sai che sta a mezza stanza, non sale sino lassù, capito? Rimane a metà stanza. Infatti se ti sembra una cazzata, quando ci sono pezzi di gas così bisogna aprire le finestre, prendere una scoppa e scoppare nell'aria così. No, già è vero perché ho fatto il corso d'antincendio, già è vero, è così tutto. Vabbè, io facevo anche antincendio, facevo protezione civile, antincendio, tutte queste cose, abbiamo fatto i corsi. Vabbè, comunque probabilmente loro cosa è successo? Come hanno acceso la luce, boom, è che esplose, capito? Un attimo ci vuole, anche a me l'altro giorno stavo pulendo la cucina e quando friggi o fai il carne arrosto, cazzo, che spruzza, no? Quindi stavo pulendo bene tutte le manopole tra l'una e l'altra e non mi sono lasciato la manopola aperta. Praticamente gli ho abbassato il vetro, tutto quanto. Cazzo, sentivo questo odore di gas, e giù tra tutti, prima cosa ho controllato i fornelli, la verità, e ce n'era una aperta, per dirti, no, non ci vuole nulla, ho aperto tutte le finestre, rifletta, sono stato attento a non accendere nulla, che come tanto della roba ti sagameggia subito. Sì, lo so. Non so come funziona una cerchietta di gas, tu non te ne accorgi, basta un attimo, accendi, cazzo per canali a tutti. Tanto ce ne sono stati lì a Milano dove stavo io, ma scende le palazzoni intieri, proprio dalle perdite del gas, pensa tu. Una volta mi ricordo a Porto Torres, questo qua aveva picchiato la sua compagna a sangue proprio, tutto una giusta voce. Erano intervenuti i carabinieri, hanno preso l'ambulanza, hanno preso la tipa che è scesa dalle scale, l'hanno caricata in ambulanza, tutta zangurone, tutto quello. E allora la stavano portando via, poi dopo che l'ambulanza è partita i carabinieri stavano salendo su. Cosa ha fatto questo qua? Cazzo, ha pigliato e ha fatto esplodere la bomba. Cazzo, ha detto allontanatevi se non vi ammazzo tutti. Lasciatevi stare, cazzo. I carabinieri sono saliti. Uno, cazzo, si è appoggiato al muro delle scale, cazzo. Dalla deflagrazione era fatto brincare. Ma sai cosa è saltato? Il tetto, la gabbituia mi brincare. Già lo so, sì. Già lo so. Non ce l'ha scherzare col gas. Io infatti la notte prima di andare a letto la chiudo sempre la bombola, perché noi la bombola ce l'abbiamo ancora dentro casa, sono case vecchie, sono più di 50 anni queste palazzine qua e quindi la bombola ce l'abbiamo dentro tutti quanti. Anche io ce l'ho dentro, una palazzina non è che sia vecchia la mia, però ce l'ho dentro lo stesso, ma Pistruzzi me l'aveva detto, se vuoi ti faccio l'impianto interrato, e io siccome ci dovevo mettere interrato il cucinino, perché quando friggi d'estate così, per non fare odore dentro casa, capito? Poi anche il caldo, ma in coso mi sono fatto il cucinino fuori dalla veranda. Ho fatto mettere le mattonelle, tutto quanto ho fatto quel cucinino. Ho preso una cucina bella grande, col forno, tutto quanto, quando devo arrossire il pollo e cose, ho messo il forno lì e via. Nell'altro invece al posto del forno ci ho messo la lavastoviglie. E in teoria vuole fuori, in teoria le bombole vogliono fuori, perché è pericoloso. Dove stavo io c'erano quei bomboloni grandi da... ce n'erano due, ma tutto il condominio però, ce n'erano due ed erano da 65 di coso, erano grandi, da 65 kg l'uno, fate il conto. Ma funzionava anche il coso, come si chiama, lo scaldabagno a gas? Sì, erano collegati con lo scaldabagno pure, con l'acqua e tutto qua. Erano collegati con quelli, scaldabagno, cucina e tutto quanto, erano collegati lì infatti. Infatti, ma anche nel palazzo qua vicino praticamente hanno messo il bombolone fuori, un bombolone della Butangas. E arriva il camion li fornisce, capito? C'erano tutti gli impianti a gas, i riscaldamenti a gas, tutto a gas c'ha. Ne hanno due di bomboloni addirittura, solo che hanno peccato in una cosa, hanno messo il tettuccio che copre il bombolone le termite. Ma ce l'avevano messo anche qua l'avevano messo qui il bombolone per tutti, quello per riempire. E si sono lamentati perché è pericoloso qui, là e pare varie, alla fine pure ne l'hanno tornata le varie, si rabbigliano i luci. Pericoloso è tutto, allora vivi in una boccia di vetro, fai nuda. Tutto è pericoloso, anche fare di ricare di vari, la madre di un'amica mia non è morta così, pulendo le scale c'erano due piani, no, zona giorno e zona notte, stava lavando le scale, scivolata, ma soprattutto la testa e ci è rimasto. Un attimo, deve suonare il cellulare, oggi. Sì. Hai già di lui, Ah, Giovanni, sono tornato. Aia. Cosa vai? A 12? No, appena sono tornato. Ciao, ciao Claudio. Ecco, c'era anche Ginko, ma dice che era al telefono. Ah, rispetto alle Ginko c'era pure. KK, meglio, l'ho sentito primo pomeriggio in PMR. Rispetto, qua sì. Oh, beh, no, vabbè, c'è cuccato, c'è. Lui, vediamo se va tutto bene qua. Sì. Sono io, sì. Sì, e mi ha detto che era Doluri, era. Lui ha detto che ci ha migliorato. Che ormai non riesce a mancare pochissimo. Sì, gli ho fatto prendere le pastiglie che ho preso io, la cura che ho fatto io, se no non le voglio andare in medici. Né due nel Badrino. Quello è micidiale, quella malattia ortopedica, a me proprio per le vene al disco, l'omoscialgia, tutta la parte articolazione. La prende anche mia figlia per artrite reumatoide, figurati, è micidiale. Se fai bene la cura, in giro di qualche settimana sei in piedi veramente, ma in piedi veramente. Io, da quando ho fatto quella cura, sono partito con due pastiglie al giorno, una pranzo e una cena, e poi ne prendo, adesso ne prendo una ogni 15 giorni, ma giusto così perché... per non alimentare l'infiammazione, capito? Però è micidiale, la entrava è micidiale, è una bella cura. E me l'ha detto, dice che sta migliorando, va bene, sono contento. Ehi, a te ti hanno fatto bene qui. Io non potevo camminare, niente. Assolutamente. Ma adesso sono, vabbè che ho dimagrito 12 kg, perché anche quello influisce molto. Io gli ho detto a lui di cercare di fare un sacrificio, di mangiare cose più sane, niente pane, oppure qualche pezzo di pane integrale, lasciare la birra, la roba gassata, eccetera. E io sono, ormai la mia alimentazione è cambiata totalmente. Capito? Però adesso sono rinato, non ho più mal di schiena. Vabbè, e adesso puoi andare in moto, sì. Sì, c'è anche stamattina, ero un paio di giorni ferma perché non stavo appunto la terra bagnata, stava piovendo eccetera, però l'ho presa anche stamattina. E qua sotto, l'ho lasciata qua Mario stamattina, si è preso la macchina, evidentemente deve andare fuori da qualche parte. KK. Vabbè. Ah, quella grande è presa, non il motorino. No, quella grande. No, il motorino ce l'ho tutti i giorni. Poi me l'ho portato qua già, l'ho provato tutto. Siamo rientrati stamattina, prima dell'ora di pranzo. Abbiamo traslocato, siamo a Tattari Manno. Va bene. No, il motorino l'ho tutto riverniciato, in campagna abbiamo riverniciato con Mario, tutto messo a posto. Sto cercando un conchisella, cazzo, non riesco a trovarlo, di quella dimensione. Sono andato a Truffaldo, ne ha una che si adatta, che bellina, nera, semipelle, cazzo, 70 euro. Ah, Tinnandi! Poi, mi si è fatto un ricco con i morto. E meno male che lui era invidioso dell'amico che vendeva le predipi, erano al ghero. Ha detto, dici un cazzo, con una moto, dice che non mi so di là, con una moto ci fa il tanto di quattro moto che vendo io. No, ma poi anche sugli accessori è troppo caro. Ha detto, no, domani esaurito, c'è il cazzo per uno scooter è 70 euro di copricella, ma così, e non ne ho altro, se non ne ho altro, pazienza. Vado alla Marella, vedo domani mattina, tanto devo andare al CAF. Una mattina lì via Lamberto, ritirarmi la documentazione alle 7.30, passo la Marella, dico quanto vuole, me la faccio rifare nuova, con il gatto copricella. Ma è l'unica, capito? Lo so, per dire io, mi tocco le parole da bocca. Io, quando mi era sceso il cielo della macchina, sono andato da lui, me l'ha tutto tolto, ha rimesso il cartone, quello che è in terra nuovo, ha fatto tutto il rivestimento lui, cazzo, sembrava uscito dalla fabbrica come l'ha fatta. Sì, mi ha preso un po' di soldi, però almeno me l'ha fatta bene e la macchina era a posto. Io già lo sai che ci tenevo un bel, la macchina c'è dentro che fui. E niente, praticamente me l'ha sistemata, con 250 euro me l'ha fatto tutto. Sì. No, la mia ancora, la macchina. macchina è a posto, il nuovo anche il cielo, me lo lavo, me lo pulisce con la pulivacqua ormai, figurati. Io non ci fumo, dentro niente, è abbastanza in ordine. Non è sceso ancora, nonostante gli anni della macchina. No, non ce la me la faccio fare nuova a lui, non so se in chi vi era. La moto, ho tutto verniciato, l'ho verniciata in campagna, ho scoppato il compressore e tutto, la tinta sua nera, l'abbiamo fatta. Va bene, ok. Quindi sta andando tutto bene qua, questo è il 440, l'ho acceso, ho visto che è acceso subito, quindi non ha subito nessun danno in questi mesi di silenzio. Va bene, sì? Va benissimo. Io sono disperato, sto cercando una PDC, ho cercato una PDC 1000, perché mi sa che è l'unica antenna che posso mettere, perché è leggera, sempre tra turbo 2001 non bel disagio. E voglio leggere che sia, che dall'800 e la 1000 sono una favola come antenna. Non so se è rimasto qualcosa a Massimiliano, neanche dell'occhiera, non so se sente a Gigi o chiami a Gigi a vedere se c'ha qualcosa lui, capito? Perché nel camion mi ricordo che antenna avesse, però qualcosa ci aveva Gigi di antenne di macchina, no, io non ne ho, avevo, non mi ricordo a chi l'avevo data, forse a Mauretto, a Mauro l'avevo data, e a Mauro provo a chiedere, forse ce l'ha lui, è perché l'avevo data io, mi pare che era la PDC-800 proprio, poi era la 1000 e ora l'800, comunque sono simili, l'avevo data lui con la base magnetica per la macchina. Invece poi gli si è bruciato il baracchino, non ne ha più messo in macchina. E chi lo vede? Non l'ho più visto io, Mauro. Ma ti stavo dicendo, no, Gigi c'aveva la 5000, la Turbo 5000 c'aveva, la più grossa ancora la Turbo 2001. Ah, è vero, lui c'aveva quella lì, c'aveva quella. Vabbè, comunque, no, ma oggi c'è un numero di telefono, ci hanno sentito anche la poco. Solo che ogni volta ci scende, andiamo a un caffè, cazzo di punti ci volevo, prendiamo un caffè. L'ho chiamato un paio di volte quando ero in campagna, no, non era mai disponibile, che ero più vicino. E quindi niente, comunque se voi lo chiamo, io dico se ce l'ha, se non le serve, che la sta dando, prova a dirglielo a vedere. KK, va bene, mi ho portato tutto su, mi sono ricollegato l'altra radio con la piccolina e va un bel bene. Anzi, aspetta che te la faccio sentire a vedere se ho regolato bene il microfono. Allora già, questo è il l'inoite, quello base, va bene, no? Meglio dell'altra va. Allora va bene tutti e due. Sì che va bene Claudio, non c'ha nessun problema. Cosa ti stavo dicendo dell'antenna? Prova a chiedere se è in buone condizioni, che non c'è stato un'aria, cazzo, non è che l'hanno tagliata e fatta. Ecco, l'unico problema è la vorrei nuova per quel motivo, perché magari ci mettono male, la tagliano per stazionare e magari nella macchina mia non vanno bene. Poi a chi sa che li mangio comparato, non glielo detto a Marta che non va bene, non si riesce a regolarla con lo stupido di stazionare, niente, alzandolo, abbassandolo, sempre due da 1,9,2. No, va, quella di Mauro te lo dico io perché avevo messo l'Aran 48, quello modificato. E le stazioni le avevo misurate io, se non l'ha toccata, che l'ha staccata e messa da parte, aveva 1,2 di stazionare quell'antenna. Senza lineare, non aveva niente, macchina aveva solo il baracchino. Quindi se ce l'ha ancora era in buonissime condizioni quella. E diglielo, se ti capita, diglielo. Se non la trovo nuova, ho provato su internet, ma nuova non c'è. Adesso sto cercando, sto facendo una ricerca. Chi la fa la PLC 800, la 1000? La Sigma, la Sigma, che marca è? Chi la fa? Aspetta. A me piace molto quel portatile che parte Gianfranco, ma è veramente bello, mi c'è tutto, segnale, è il più completo secondo me degli apparati che c'è. perché c'ha le bande, c'ha segnale, c'ha FM, è proprio un bello completo. Lo conosco, l'ho già visto, io già lo so quello che c'ha Gianfranco, l'ho già visto. È bello sì, bello e funziona anche bene, no, non c'è problema, quindi va bene che va bene. La radio quindi non è satura, amplificata, bella, va bene così? Sì, va bene, liscia la radio. Bello, lo sai qual è? Come estetica, perché poi è molto più completo il mio. Quello che c'ha lupo grigio pare un microfono, cioè praticamente tu togli il coso delle batterie e rimane piccolo piccolo. Chi la fa la spesa? La spesa? Ciao Lu. Ah, Lucrezia. E Lu. Oh, Lugarie. Urgia. Gappa. No, ho provato anche stamattina su, è solo l'email che non funziona, il resto funziona tutto, sono entrato anche su Facebook stamattina, ma gli ho fatto una risata. Ho visto il tuo coso, quello che hai messo, Inter, eccetera, eccetera, ragazzi, io da forse la fotografia, la prendo poco, guidato, che era, mi sembra che era cosa, come si chiama, ma la volevo dire in fretta, e ho per scriverti un messaggio, così impari. Vabbè, comunque c'è una pagina impostata in inglese, è chiaro, no va bene, no va bene. No, non mi fa entrare, né come che non abbiamo fatto niente. Quando apro la pagina delle mail, la pagina è sempre di Tiscali, è sempre IS0 di FB che ho c'ho a Tiscali e basta, però quando le do la password non mi fa entrare, capito? È come che non abbiamo fatto niente, c'è qualche problema di fondo, non lo so, vabbè. Il resto funziona tutto, è velocissimo, no, non ho problemi, lo so bene, stamattina non sono arrivato a casa, qua ho acceso tutto, riprovato, eccetera. Niente, solo la pagina delle mail che non va. Il resto funziona tutto alla grande, come sempre. Pagina iniziale Tiscali, velocissimo. Sì, ma allora, se non ti fa entrare su Tiscali, cioè nell'altro email non ti fa entrare, abbiamo fatto l'abbiamo fatta nuova l'email, lì ti fa entrare per forza. No, quando cliccano esce quella Tiscali, poi lo vediamo assieme adesso. Sono rientrato oggi, stiamo mettendo un po' a posto, facevo pulizia, poi appena mi libero lo stacco e te lo do e lo controlli tu. Però secondo me, come mi ha detto Ilaria, è successo quando io sono passato a 3, Tiscali mi ha chiuso i viveri, non so cosa può essere successo, non me ne intendo, però qualcosa è successo lì, proprio nel sito email, capito, nella pagina email, il resto ti ripeto, il computer è come sempre. Sono entrato su Facebook stamattina appunto per vedere se funzionava tutto e funziona perfettamente. Confermo, quando gli dico, se è passata a 3 te l'hanno bloccata, sì, ma ho chiesto, me l'hanno già confermato, così è. E lui, solo quello può essere, capito, quindi l'unica soluzione è chiamare 3 e fare le mail con 3, così c'ho tutto 3 e via. Anche se l'aria mi ha detto papà aspetta, perché intanto aspettiamo sino a fine anno, a gennaio poi mettiamo la fibra, capito, e quindi faccio tutto con la 3, con la fibra, quindi. Va bene, avanti già, ciao Monaggio Brescia, ma futuro delle mail, l'importante è che funzioni tutto il resto, vai Gianni. Allora, quello che abbiamo fatto noi, scusa già, quello che abbiamo fatto noi è Hotmail, capito, ora lo faccio, ho anni, però te dicevo, non me l'hanno mai bloccata, però la devi aprire, anche se non devi controllare niente, la devi aprire, perché se tu non la apri da un po' di tempo, te la bloccano, capito, a me mi avevo cambiato la password, so che l'avevo recuperata perché c'era il mio numero, avevo rimpostato la password. Invece quel numero non ce l'ho più io, hai visto? Non ce l'ho più e quindi hanno cancellato tutto. Hanno cancellato tutto. Vabbè, poi lui mi dice se anche la testa andando bene e tutto, che ho ricollegato tutto qua. Vai Gianni. Ehi Ami, l'ho trovata, però solo PayPal, bisogna pagare con PayPal. E io PayPal non ce l'ho. E che cosa già? La Sigma PLC 800. Dove l'hai trovata? Sei bene? Ehi, No, no, dovrebbe essere Siben, c'è scritto, Siben Elettronica. Siben IT. No, guarda, se c'è Siben, se c'è Siben te la ordino io, ce l'ho la PayPal. Eh beh, questa qua da Siben non ha più ordinare l'acqua. No, no, altrimenti no, se me vado sul sicuro. Non ho mai avuto problemi, cioè non mi ho mai fregato i soldi, ecco. Sì, con la posta pensi, con la PayPal no. Cerca la sua eBay, se mi dici dove te la cerco io. Avanti Castravina, forte e chiaro, avanti. Buonasera. Dimmi il nome dell'antenna già. TLC 800. O 1000, come... Ciao Catrami, ben ascoltato, buonasera. Eia eia, già sono io, cambio. E 9:10 sei qua, dove sei? Più di 9 sì, più di 9 sì, Catrami, ottimo per la truppa, dai, io sono rientrato stamattina dalle vacanze e quindi siamo nuovamente a Tattari, arrivi benissimo alla grande, vai già. Ehi, dai, Catrami, arrivi bene anche qua, dai. Non so come ti stia arrivando io, sto usando un apparecchio base di vecchia data, anche se non tanto di vecchia data, dai, questo qua è l'Intec base 495. Ciao Catrami, te l'ha messa a posto bene Gigi l'apparecchi. Ciao Catrami, alle prossimine, dai, ok. Ci sentiamo, buon rientro, buon tutto alle prossime, gappa gappa. L'ha trovata, la state ordinando? Non lo so, aspetta che me ne suonato il campanello. Ehi, ehi, va bene, va bene. Lucaria, bene, ti sto arrivando? Sì, sì. Ok, sto andando sempre con la solita radio, va bene. Solo non sapevo se le regolazioni erano fatte bene, ma dovrebbero essere queste, dai, cioè va bene. Cappa, adesso lo chiedo un'informazione al vostro qua, vediamo. Prova, prova, prova, già sono qua, prova. Se mi hanno isolato le campane, ti sei guardato e non venisci uno, boh. Ma allora, da giù o da su? No, da su, però ho sentito il rumore dell'ascensore. E chi venga a aprire Ian? Perché secondo me è qualcuno che vuole assicurarsi se c'è gente. Come ha visto che non ha aperto, se ne sono riusciti. Sarà una mia impressione, ma sicuramente in questa zona non c'è da stare molto tranquilli. Ieri cazzo esplosa una cucina in via Albera, lo sai? Sì, giusto, sento la televisione. L'hanno detto? Sì, l'ha detto Videolina. Ah, io non l'ho seguita a pranzo Videolina, dai, sicuramente è all'ora di pranzo che l'ha detto. Ehi, ehi, io veramente non è successo niente, dai, danni limitati, non si è fatto male nessuno, dai, meglio così, vuol dire che era leggera. Va bene, mica non stai disturbando, stanno isolando col campanello, ce ne sono andati, mica non c'è gente del tuo palazzo. Sì, vabbè, adesso un po'. Beh, è impossibile già che sia gente, mica salgono la porta di su a suonarti, no? Si apre in presa, hai cosa fate? No, è gente del palazzo, e siamo vecchi di questo mestiere, fatemi così, fatti, normali di faccia a farci vedere, capito? Fanno così, fanno, vabbè. Gappa gappa, avanti Lucarie. Mi già c'è un numero di WhatsApp, se vuoi te lo passo e chiami, perché c'è scritto qua, aspetta, c'è scritto che devi chiedere, allora, contattaci per maggiori informazioni sulla disponibilità di questo articolo. Ma dove? Questo sito l'hai detto tu, sì, Ben. Sì, ma c'è scritto che si può fare solo con PayPal. Io c'ho PayPal, non è il problema. Sì, aspetta che... se mi dai il numero, chi ha? Castoro. Pronto, sì. E io c'ho la scrivania, dove vai? 371-010-784. Numero piano, 371-0110... No, 010-784. Vabbè, è un numero di cose, dice, vabbè. C'è scritto anche che non lo manderanno subito perché sono assenti momentaneamente. Vabbè, tu chiama già e mettiti d'accordo, senti un po' quanto vogliono, come sferiscono, eccetera. Poi l'ordine te lo fa Luca. Stavo che sebbe non ci sia. E ce n'è una, aspetta. La Sigma PLC Inox, accanto a... aspetta, c'è una su eBay, 49 euro. Ma nuova? Eh beh, condizioni nuova, sì. Costa 49 più 9, 50... 58 euro ti viene. Troppo. Sirio, turbo 1000, PL inox, non è quella. No, quella di... quella piccola. E poi c'è la Sirio che fa la stessa, c'è cioè l'antenna copiata, si chiama lo stesso PDC Minox. Aspetta che chiamo, vediamo un po'. No, un attimo, anche io mi assento, arrivo subito. Fate, già sono qua, io sto facendo una cosa. Luca, il numero che mi hai dato dice che è inesistente. Allora, te lo ripeto, 371 010 784. Aspetta. No, può essere, ci mancano due numeri. 371 010 784. E quello fate, dice che è inesistente. Infatti sono, manca un numero. Manca un numero, è possibile. Ma vedete tutto in meno, aspetta che chiamo il nostro amico. Quelli che sono in gamba, sono gentilissimi. Quelli napoletani, io, come si chiamava, Ghisio? New World, così potrebbe essere. E beh, tutti morti. Tutti morti siete. Ma poi ci sentiamo dopo, se facciamo una cosa. A Bisese. Hola! Eccomi! Adesso ho parlato con il tecnico della LEM, con l'antenna, e gli ho detto che non c'è dove stare la LEM, mi ha autorizzato a tagliarla. Adesso se non riesco a scendere, che me la fa cambiare da Fusaro, che telefona lui, me la fa cambiare, ma mi ritorna in sciubi, capito? E comunque ho detto che tagliandola dovrebbe, io non l'ho tagliata perché l'antenna era nuova e poi rischi sempre che alzano di più le stazionarie e poi non riesci più a abbassarle, non l'ho tagliata quella. Invece la turbo, la mini turbo, quella che ho dato a cosa, le stazionarie le ho dovute regolare tagliandola, perché se no erano 1,5, però sono riuscito a scenderle a 1,1, 1,2 su 40. Ma tagliandola taglia da sopra però, dalla punta di sopra taglia, non tagliare da sotto. Ma che cosa stai dicendo? Già lo so, non è la prima, no, che è caro. Però un'antenna nuova tagliata è sempre, io cerco sempre prima con lo scubo salendo e scendendo di tararla così prima. Se no c'è gente che li taglia il filo, ma non è così, bisogna tagliare lo stilo. E mi ha detto comunque, mi ha dato l'autorizzazione di tagliarla, mi ha detto guarda tu provaci, aspetta, accetti anche 2-3 centimetri, aspetta, cerca di controllarla. Ma io ne ho i miei dubbi, Claudio, quando un'antenna è 2 su tutti i canali, è fatta, non scende di un millimetro, niente. Prova tu, tagliane un pochino, lascia perdere i centimetri, a millimetri si tagliano le antenne. A millimetri, prova intanto a spuntarla a qualche millimetro e vedi un pochino se magari scende. Se scende allora ne tagli un pochino in più e vedi. E lo so, è successo anche a me, un'antenna VHF, l'ho dovuta di macchina lo stesso, l'ho dovuta accorciare da sopra perché aveva un 8 di stazionarie, non l'avevo comprata nuova, comunque capito. Ma ce l'hai, fregatene, ce l'abbiglia in culo. No, se non va bene della torno, cazzo costa 45 euro quell'antenna, non costa di due franche. Appunto, se ti ho autorizzato a fare questa cosa, falla e vedi un po'. E adesso vediamo, ha detto che lui ha detto 1,5 va bene, se scende 1,5 va bene, no non va bene, perché se io voglio attaccare un lineare con 1,5 non va bene. Bisogna... praticamente quando è 1,5 tu attacchi lì e arriva a 2, deve essere 1,1, non è devo attaccare, però se dovesse capitare mi metto la batteria a parte magari. Questo attore lineare io te l'ho già sentita dire un sacco di volte, allora io anche a casa, no? Ad esempio, avevo, adesso l'ho staccato, non mi frega niente, lo stavo provando. Ad esempio col 747 o anche col B300, ma col 747 avevo prima di regolare l'antenna, perché anche io ho regolato la spirale, avevo fatto dei lavori eccetera sul tetto, avevo 1 e 4 di stazionarie. Quando attaccavo il 747 scendevano 1 e 2, non salivano, scendevano già, non capisco il perché, scendevano 1 e 2, capito? Vabbè, a me se attacco un pochino, non dico tanto, questa qua proprio qua è perfetta. Con l'antenna è perfetta, già lo sai, non si muove nemmeno l'altro. Questo caso, se io attacco è 1 e 1, capito? L'altro non si muove quasi. L'antenna deve essere così. Io quando ho piazzato la Turbo 2001 sull'Astra, chi me l'ha piazzata, perché l'ho portata da Pudi, che è quello che fa gli impianti in radio, perché volevo una cosa fatta performante, gli avevo messo i cavi schermati, tutto quanto. E quando l'ha piazzata mi ha detto, guarda, io non c'ho strumento, l'unica cosa che c'è è che ti devi regolare le stazionarie tu, perché io strumento non ne ho per le stazionarie, non ne facciamo quasi mai impianti di questo genere. Beh, fatto sta che io sono andato a casa, ho preso il Roosevelt, sono andato a piazzare i 16, aveva 1 di stazionarie, manco 1 e 1, in tutti i canali, capito? Però mi ha detto quel tecnico che la Turbo 2001, essendo a larga banda, è un'antenna diversa, dice, non puoi pretendere che questa antenna vada come la Turbo 2001. Lo so, no, io erano anni che non controllavo l'antenna. È capitato quando ho fatto lo spostamento dall'angolo dove adesso l'antenna della 27, la Mantova, mi sono regolato la spirale perché l'ho smontata, pulita, tutta ingrassata, l'ho tutto fatto manutenzione. E quindi l'ho regolata, ma regolata come? Non da sotto a sopra, nulla, mi ho portato l'alimentatore, il baracchino su, un baracchino su e ho regolato direttamente da su. E guarda, io a stazionarie sono 1 rapporto a 1 con il K e sto andando con 40 watt modulati. Fate il conto, col baracchino a 3 watt manco si muove, proprio manco si muove la T230 della Kenwood, non strumenti del cacchio, è regolata benissimo, e così devono lavorare. Le antenne devono lavorare così, provaci, se riesci a regolarla e portarla a 1 e 2 è più che sufficiente. Sì, ma infatti, ti sto dicendo, l'ho pagata a 45 euro, se io dovessi prendere la Turbo 2001 adesso devo aggiungere 18 euro e basta, capito? E c'è un'antenna performante, mi sto facendo questi conti qua, adesso vediamo se... Se è il caso mi prendo la 2001, c'ha anche la mini turbo di nuovo, c'ha la mini turbo dello stesso colore della macchina, è tutto nera, però quando vai a mezzo e palazzi con la mini turbo non ti andate nessuno, invece con quella lì che ti sento più basso, ma ti sento. Ma vai già, dopo ci avevi un altro impianto con l'altra. Ti sentivo quando partivi io che eri nel piazzale dove lavoravi, oggi Zene, Santiago 9, da qua da casa, vabbè lascia perdere che io c'ho una buona posizione, però arrivava bene, arrivavi benissimo con quella piccolina, l'hai messa poche volte, ma quelle poche volte che l'hai messa io ti ho sempre sentito bene, assolutamente, è più corta, non devi arrivare in capo al mondo, intanto quando sei in città va bene, quando vai a Platamona va bene, perché abbiamo tutti posizioni buone, quindi cosa ne affutti? Io avrei preso quella corta nera. E quando l'ho provata non mi ha soddisfatto qua. Ho messo quella che c'avevo del portatile, una in fila all'altra. Ho provato sia una che l'altra, anche se arrivava a quanto quella del portatile. Cioè, per avere la stessa antenna mi tengo chissà chi bagno. Vabbè. Allora scusa, se te la cambia, tu a lui glielo dici, guarda io gliela sto riportando, giù, la differenza mi prendo dal 2001, non la tocco neanche, chiamo il fusaro e me la faccio sostituire, e ti cambi direttamente l'antenna, cosa stai a toccarla? Infatti, a lui mi ha detto, no vabbè, me l'ha detto lui, il tecnico. ho telefonato alla Lem, mi ha dato il numero Fusaro, ho chiamato alla Lem per vedere che cosa potevo fare, mi ha detto ma lei l'ha provata, lui deve andare sull'1 e sul 40, e ho detto io faccio 1, 40 e centrobanda che è il 20, li faccio tutti e 13, no lei deve fare 1 e 40, se sul 40 sono più alte deve tagliarla, se sono più alte dell'1, se no se praticamente sono più basse sul 40 e sul 1 sono più alte deve alzare l'antenna. Eh sì, già me l'ha detto, lo so che è così Claudio, tutte che mi dici di non hai nulla di nuovo, ne ho tarato mille di antenne. Però lascia prendere il centrobanda che può calare, sai come ti ha detto lui, provala, vai sull'1 e misura stazionale, poi va sul 40 e misura stazionale, se c'è differenza tra canali alti e canali bassi allora accorci e dovrebbero scendere automaticamente senza stare a fare centrobanda 1, 40, nulla, fai prima nell'1 e misuri, poi vai nel 40 e misuri, se sono uguali nel canale 1 e nel canale 40 per pure va chi si antenna non scende proprio niente. Sono uguali, claro, l'ho già fatto, sono uguali, sono, cosa ti posso dire, se sul, addirittura sul 40 va 1,8, sul 1 va 1 per dire, no, sul 40 va oltre il 2, sull'1 va praticamente sull'1,9, quasi 2. Tu non fai prima costruito? No, lo so, ho telefonato alla Lemma adesso, no, ma me la cambia, a forza di Maragana me la cambia, 45 euro non gliel'ha regalato. Ciao Gianfra, buonasera, ma infatti fatela cambiare, boh. Quindi occhio che non la rifili a qualcuno adesso. No, meglio non la rifila che non la giova la china in macchina. Vabbè dai, comunque. Già, adesso vedo. Adesso mi sa che domani me la reggo e basta, non sto a stressarmi, l'altro giorno ero tutto sudato, piantare segni, cazzo. Aprivo lo sportello, controllavo, sembrava che stesse scendendo, poi mi sedevo in macchina di nuovo, cazzo, la stazionale a Gogo. Vabbè. Sarà quel che sarà. Ma non è che sia Rosmetro così da 13, no? No, Rosmetro è nuovo, caro. Il Rosmetro, ho misurato l'altra antenna e misurava bene. Quando c'avevo la mini turbo, che poi, vabbè, me ne sono mezzo pentito di averla venduta con la mini turbo. Quella lì io l'ho regolata, però per regolarla ho provato prima con lo stub e regolava, sì, però scendeva 1,4 al massimo. Ne ho tagliato due tacchettine piccoline da millimetri e sono riuscito a regolarla 1,2 e poi non ho voluto tagliare altro perché ho detto magari poi sbaglio e mi salgono di nuovo. L'ho lasciata così a 1,2 e 1,3 su 40. Tutto lì, l'ha regolata bene quella là. A proposito di Rosmet, Claudio, ho già fatto tutto e anche mandato, tra poco dovrebbe anche partire, hanno accettato anche il Rosmet, meno male non l'ha voluto nessuno, perché la valutazione è salita parecchio. Quello della Revex? Sì, sì, a voglia. Gianfranco, quando la gente non capisce cosa vuoi ti faccio io. Io già lo so, io ho lavorato a Elio uguale a quello io, della Revex, quindi già lo so cosa vale. Perciò, pazienza, hai fatto bene. Io te l'ho detto, metti tutto dentro una scatola e spedisci tutto, tanto. Sono tutte cose che la gente non conosce, non fa, e boh, non mi serve, vediamo, tira, molla, hai fatto bene. Io sono dello stesso parere. Io adesso stamattina ho chiamato a Braga, il 756, ma tu guardi, la chiamo io la prossima settimana perché sto finendo dei lavori. Così me lo manda, glielo faccio e glielo rispedisco. Perché altrimenti se me lo manda adesso rimane qua magari 10-15 giorni, invece ci sentiamo la prossima settimana, me lo manda e le cambio il display e le spedisco subito immediatamente, le faccio le tarature e le spedisco subito immediatamente. E faccio così, è inutile stare a tira e molla tanto. Cosa stai a cercare gente, a farti le cose, sembra che ti stiano facendo a gratis, io a gratis non voglio nulla. Vai già. Vabbè, il fatto che devi spedirlo però sa, piglia gol che cosa, va. Già, se lo emuli che gira e li fai, lo metti bene nella scatola, già non dovrebbe succedere. Però so che la gente ha mandato fuori gli apparecchi, che si fa tutta la struttura di con la mano un po' la rotta o cosa. Sicuramente colpi gli apparecchi. No, già, io faccio l'assicurata e poi la scatola di queste radio costa più la scatola. Tu immaginate che noi radioamatori, quando vendiamo le radio HF, se non hai la scatola non te ne comprano, perché la scatola costa quanto la radio, hanno delle protezioni allucinanti. Questa c'ha, praticamente va incassata con delle cose di polistirolo davanti che copre tutto il frontalino grosso e poi dietro, e ai lati io ci metto le bottiglie, quelle piccoline di plastica gonfie con i tappi ai lati, capito? E sopra tutta il polistirolo. Tranquillo, e ne ho spedito, poi io lo spedisco tutto con GLS, quindi non c'è problema. È che un amico appunto dei trasporti non sta viaggiando più, se no sai quante volte le davo a lui, portalo a Milano, portalo a Coso, e me li portava lui, li consegnava direttamente a mano, e poi quando erano pronti passava e me li ritirava, ma ormai non viaggia più. Va bene, Gianfranco, tutto a posto e niente in ordine, avanti. Ma Sasa, li dobbiamo assumere qualcuno che aggiusti gli apparecchi. Fissati siete, non c'è nessuno che aggiusta quelli moderni, ma proprio nessuno che aspetti a vedere cosa c'è. Non c'è quasi niente, cosa aggiusta? Al limite sfascia. Ci sta la radio nostra, già, non lascia perdere, non sia contenti di Galaxy, Elbex e Baracchino. Sono radio particolari che non le vuoi vedere. Tu immaginate, io ho delle righine, che la radio è perfettamente fuori, ho delle righine già da un po' di tempo, cioè non ho voglia di spedirlo, adesso mi sono fatto lo spedire, delle righine sul display dell'ICOM. Ce la metti al display nuovo, lì te lo cambia. Sì, ce la fare tutto il lavoro particolare, puoi fare tutte le tarature e rifar funzionare tutto col display digitale. Se sbagli ti rampi la radio, ci vuole gente esperta, gente che fa quel mestiere, capito? No, che aggiusta baracchini o modifica baracchini, non è cuscini che funzionano. Si fanno i corsi per queste cose di specializzazione, sono radio con microcomponenti, eccetera, quindi bisogna saperci lavorare con il saldatore ad aria, eccetera. Poi non è così, no. E questi specializzati ci sono solo in continente, c'è poco da fare. Gente che si affetta qua a fare corsi di questo genere, cosa ti posso dire, su una marca tipo sulla Kenwood o sulla Yaris, eccetera, specificatamente, non vi ne è in occhio. Poi lascia perdere, già, te lo sto dicendo, no, non è così, no. Gli unici sono la CS Song, che sono, hanno tutto, ICOM, IAESO, Kenwood, qualsiasi cosa. E poi c'è Braga, che è molto esperto sui digitali, sulla parte appunto monitor, eccetera. Infatti la spedisco a lui, perché mi aveva detto anche Walter di spedirla lì. Va bene, non ve ne è saldato l'aria, che siano, è tutto a spine come il computer, quindi se sbagli una di quelle accende la radio e copia tutto, è tutto un sistema particolare, tutto a cristalli liquidi, lascia perdere, se tutti buoni, una bocca, fa vedere, poi con le mani devi essere veramente esperto a fare quelle cose, esperto devi saperlo fare, uno ce lo sai a Sassari che potrebbe, non lo so, potrebbe farlo, però io non chiedo niente a nessuno, pago, me lo faccio fare con tanto di garanzia e metto il suo display originale ICOM. Vai Gianfra. Sì, ce n'è anche un altro, bravo, molto, ecco, Radio Assistance di Milano, che lavora anche su apparati a alta frequenza, avevo mandato l'ICR ricevitore, un ICR 9000 e qualcosa, che costava un patrimonio, non ho messo in ordine, quindi certo costano carica, però lavoravamo bene. Un altro mi era capitato sul radar aereo, che si è bruciato praticamente il finale di ricezione, e quello è un casino perché è piccolo e se sono a gas anche. Prima l'ho mandato in Germania dalla Wimo, che non l'aveva venduto, e la Wimo l'ha spedito, ma come cato l'ha spedito al centro che hanno in Inghilterra, ma proprio passo passo è l'assistenza. Poi tornato indietro, comunicando il guasto, abbiamo cambiato e hanno inserito dei cosi più, degli amplificatori un pochettino più robusti, perché si erano accorti e molti partivano al minimo temporale. Certo, direi la garanzia, non ho pagato più per niente, neanche la spedizione. Certo, non ho pagato niente. Ascolta, ma hai mandato su anche il Racal? No, il Racal no, perché non ci stava, è troppo grande. C'è stato il Cristoforo, l'ho messo nella scatola, infatti l'ho messo nella scatola dell'Icon. E li ho spedito, quindi adesso si arrangeranno loro. L'ho messo insieme alle altre radio sulla radio, coperto con la posta, e speriamo che non ci sia mai occasione di usarlo, perché quando lo usi vuol dire che l'apparato è un po' fuori frequenza, però non è un problema quello. Ehi, vabbè, non ti preoccupare, quello sono già in contatto, te l'ho già detto, vediamo un po' se riusciamo a sbolognarlo. Poi se c'è roba che devi buttare via, avvisami, non devi versarmi, ok? KK, avanti già. Eiaia, KK, sì, fai bene, quando non ti serve la roba è inutile che stai a accumulare da poi qualche cosa. Io vedi, portatile ne avevo già uno, ma quello di Gianfranco mi piace molto, è molto completo come apparecchio. Luca mi ha fatto quel lavoro del cambio dello spinotto, ho messo tutto l'ambaradan invece che dell'Inter, che era del Midland, che era uguale identico, solo lo spinotto era diverso. Abbiamo cambiato lo spinotto, che ha fatto un bel lavoro. Ma quello spinotto di alimentazione mai detto? Quello che fa sia l'alimentazione che per l'antenna, tu l'antenna la puoi attaccare sia sopra che sotto, c'è il filo per attaccarla, e abbiamo cambiato, ce l'avevo del Midland nuovo, e quello lì magari con l'andare del tempo si è seccato e si stava tutto sbucciando, capito? Vabbè, è chiaro che queste cose vogliono cambiate, altrimenti è un casino. Meglio così che sei contento, quando uno prende una cosa deve essere contento di quello che compra, altrimenti quando uno non è soddisfatto non c'è niente da fare. Vabbè, uia, siamo tornati alla base, già fra Rosario è un di vero, soprattutto Jimmy, tutto aperto, c'è un fresco bello, mi sto guardando il giardino, hanno pulito tutto, ho portato gli alberi, minchia che sono mancato io, adesso arrivo la fattura da pagare. Come sempre, no? No, io neanche se, guarda, neanche se mi ricopri il loro ci ritorno in un condominio, oramai qua si sta troppo bene. Sì, è vero, a volte c'è caldo, a volte fuori c'è freddo, ma è dovuto al fatto che sei in campagna, ma non c'è, guarda, è tutta un'altra vista. Sicuramente migliore di quella di un condominio in cui si affarrano, si litigano, per carità. Vai da me, questo mese 160 euro di condominio ho pagato, cazzo, paghi quanto un affitto paghi fra poco? No, io non posso lamentare, perché no, Gianfra, guarda, qua a prescindere è come se in campagna, dove abito io, condominio tranquillo, ordinato, nove a burotto, sono tutte persone grandi, c'è un bellissimo giardino molto verde, guarda, non mi posso lamentare per quello, te l'ho già spiegato perché ho intenzione di vendere e andare via. Brescia. Adesso stasera me ne esco un po' col cane, che ora sono le 7:10, verso le 7:30 me ne esco un po' col cane, trovare qualche amico, che sono da tanto che appunto non ci vediamo. Va bene, va bene, va bene che va bene, devo dire un'altra cosa, non me ne ammetto più, vabbè, non me ne ammetto Gianfra. Ognuno ha le sue idee, io sono del parere che il fuori sta molto meglio, molto, molto, molto, molto meglio. Certo, sei indipendente, gestisci tu, la spesa vuoi fare la festa, non ne fai. E poi, guarda, rispetto a dove abitavo prima, praticamente io impiego meno tempo ad andare al lavoro, che è abbastanza lontano, 8 chilometri, che dovevo prima. Lavoro prima è una disperazione, la mia collega si deve svegliare alle 7, uscire di casa alle 7 per arrivare puntuale in ufficio, perché tra semafori, intasamenti e cose di quel genere, è un disastro. Tutto lì. Tutti gli altri che adesso ho due portatili praticamente fermi, però quelli non li compra nessuno perché sono invendibili, anche se sono nuovi, però sono troppo cari. Gianfra, è chiaro che dovrei abitarvi prima, va bene, ma tu lo sai come abito io. Io non entro dentro Sassari, io entro e esco sempre al di fuori, sia per Cagliari, per Porto Torres, soprattutto io sono anni che non passo al centro. Anni, capito? Quindi è quella che mi salva, la posizione in cui sono, in entrata e in uscita e tutto il resto. Dove di tu lo so perfettamente, perché lo sai che abitava il mio responsabile, dove di tu, no, che adesso non c'è più, poverino Antonio Sicchi, è morto di tumore. Però lì è un'altra guba, no, non mi piacerebbe abitare lì. Abitare lì non mi piacerebbe a me, ma qua ti posso dire che non mi posso lamentare, dai. Come gestione poi lo sai che non ho problemi, perché il tetto, la metà è il mio, quindi non ho problemi di niente, assolutamente. Non mi posso lamentare, solo che, te l'ho già spiegato, vorrei recuperare un po' di denaro, ecco. Denaro che ho già tolto di tasca, tutto qua. Avanti già. Ehi, va bene, anche io sto bene adesso. Di graziati si sono tutti andati, adesso c'è tutta gente in gamba, avvocati e cose, tutta gente molto edita, molto tranquilla, ci sta bene. Così ognuno la vede un po' a modo suo. Io ho tantissimi colleghi, lo sai, che abitano di lì e molti non vogliono andarsene, perché basta che ne arrivi uno e c'è un casino, che quattro ne bastano, poi sono case del mondo e lui.